Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ci sono segnali di cambiamento. Voi direte la politica è stata varata, la riforma elettorale? No, non proprio. Economia, c'è una ripresa straordinaria? Non esattamente questo, ma mi riferisco a voi che state cambiando, a noi tutti che stiamo cambiando. Ce lo dice chi? Ce lo dice il paniere dell'Istat, sapete, quella specie di cesto simbolico dove sono contenuti tutti i prodotti che noi consumiamo di più, che viene aggiornato ogni tanto perché evidentemente ci sono dei cambiamenti sociali, quindi anche nei consumi e nei costumi. E quindi cambiano anche questi prodotti e ci dicono un po' chi siamo. Sappiate che tra le new entry, poi ne parleremo di questo, ci sono lo yogurt probiotico al posto di quello biologico, le sigarette elettroniche e il test di gravidanza. Cosa vorrà dire che sono aumentati i consumi di test di gravidanza, che il paese ricomincia a popolarsi? Questo lo scopriremo più tardi. Intanto, a proposito di cambiamenti, il caos dal Parlamento italiano si è spostato a quello europeo. Oggi c'è stato un discorso di Napolitano con qualche effervescenza poi seguita questo suo discorso, e poi vi dico che alla Camera è partito ormai da un po' il dibattito sulla fiducia al decreto svuota carceri. Che ne pensate di questo decreto svuota carceri? Poi man mano mentre vi racconto la giornata ci sarà anche una scheda per spiegarvi che cosa c'è dentro questo decreto, ma per voi, per i vostri commenti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i messaggi 349 238 6666. Intanto partiamo con i fatti principali. Confindustria, il presidente Squinzi denuncia il paese ostaggio della burocrazia e, rispondendo alle parole di Letta, dice nessun disfattismo da parte degli industriali. Poi Napolitano a Strasburgo, nel suo discorso al Parlamento europeo, chiede di finirla con l'austerity, intanto la Lega protesta. Il caos al Parlamento, la relazione dei questori condanna duramente il comportamento dei parlamentari 5 Stelle e di D'Ambruoso. INPS in rosso per il 2014, buco da quasi 5 miliardi. E per il calcio, Coppa Italia, la semifinale d'andata fra Udinese e Fiorentina. E partiamo quindi dal nuovo appello degli industriali a fare presto, mentre Letta dal Kuwait torna soddisfatto per l'investimento da 500 milioni. Ancora botta e risposta, quindi, a distanza tra il Presidente del Consiglio e il leader degli imprenditori. Ultima tappa nel golfo per il Presidente del Consiglio Letta, una 3 giorni di incontri finalizzata a far conoscere le potenzialità del nostro paese, un paese uscito ormai dalla crisi, come ha sottolineato lo stesso Premier, e che la situazione sia questa, grazie alla stabilità e alle riforme intraprese, spiegano da Palazzo Chigi, è l'interesse degli investitori di Dubai, Emirati Arabi, Qatar ed oggi del Kuwait nelle imprese italiane in tutto ciò che rientra sotto al Made in Italy. Ed è un bilancio più che positivo quello fatto stamane dal Presidente del Consiglio, forte dei 500 milioni di euro che solo il Kuwait investirà in aziende italiane attraverso la cassa depositi e prestiti. Questi soldi che riportiamo a casa sono la migliore risposta al disfattismo imperante nel nostro paese. È il segno che fuori dall'Italia credono nelle possibilità dell'Italia. Ed è il segno che lavorando gli obiettivi si raggiungono e i risultati si raggiungono. Il riferimento di Letta è alle critiche arrivate dal mondo produttivo. Anche questa è politica interna, rivendica il Premier, il governo porta a casa i risultati. La replica di Confindustria nelle parole del presidente Squinzi. Noi riteniamo che sia nostro diritto dovere quello di dire chiaramente quello che serve in questo momento per far ripartire il paese. Insomma, ecco, siamo disposti dalla nostra massima collaborazione e accettiamo qualunque tipo di confronto. Il presidente ha sempre ragione, dice ancora Squinzi, commentando il capo dello Stato Napolitano che parla di segni di riprese indiscutibili. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi ricordo che domani c'è un inserto speciale in edicola con Il Sole 24 Ore, si intitola La crisi d'impresa e serve per capire come gestire le difficoltà aziendali fra crediti e debiti. E difende l'attività del governo, lo avete sentito il capo dello Stato che ha oggi parlato all'Europarlamento. Il suo discorso è stato accolto, come vi dicevo, anche da una breve contestazione leghista. Si ritiene cioè che non regga più una politica di austerità ad ogni costo. A 7 anni dal suo primo discorso al Parlamento europeo da capo dello Stato, Giorgio Napolitano chiede all'Unione un cambio di passo dalla politica di austerità, unica risposta possibile alla crisi, a una svolta che metta al centro crescita e occupazione. Il discorso di Napolitano è una lunga disamina di questi anni di crisi, degli errori fatti dalla stessa Europa nelle politiche di costruzione della casa comune e della moneta unica, ma non è un invito alla resa. Al contrario, il capo dello Stato avverte: nulla può farci tornare indietro dal progetto comunitario, anche se occorre una più forte coesione politica e una più determinata leadership. Poi avverte: le prossime elezioni europee saranno un momento di verità. Sono evidenti le ragioni del disincanto dei cittadini per il peggioramento delle condizioni di vita. Disincanto che non giustifica però quella che il capo dello Stato definisce vacua propaganda di chi liquida l'Unione Europea, parole che scatenano la reazione leghista. Ok. La solita colorita contestazione leghista dura lo spazio di pochi istanti, messa a tacere dalla reazione degli altri eurodeputati. Più tardi Napolitano la definirà marginale e modesta. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre la Lega, come avete sentito, protesta in Europa, i grillini non cambiano passo in Parlamento. I questori della Camera bacchettano i 5 Stelle dopo la bagarre in aula sul decreto IMU Banca Italia. Volevano bloccare tutto, non si tratta di ostruzionismo. L'ufficio di presidenza via un'istruttoria, audizione per 40 deputati. Non solo, se la prendono anche con Stefano D'Ambrosio, questore egli stesso, per aver schiaffeggiato la deputata grillina Loredana Lupo. I questori valutano inoltre l'eccezionale gravità del comportamento di Alessandro Di Battista e sulle sanzioni al movimento di Beppe Grillo risponde così Riccardo Fraccaro. Sì, inizia questo maxi processo dove dovremo analizzare tutti gli episodi. Sappiamo quello che abbiamo fatto e se ci meritiamo a norma di regolamento delle sanzioni le accettiamo. Beppe Grillo intanto paventa il colpo di Stato sulla ghigliottina applicata da Laura Boldrini. Risponde ironicamente il segretario PD Matteo Renzi: è il 13° colpo di Stato dall'inizio dell'anno. Intanto Massimo De Rosa, grillino querelato dalle deputate PD per insulti sessisti, rinuncia all'immunità parlamentare per difendersi dalle accuse. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E stasera, come vi ho anticipato, si vota la fiducia sul decreto svuota carceri, sul quale potete esprimere se volete le vostre opinioni anche alla pagina Facebook di Effetto Notte, ma sentiamo quali sono appunto i contenuti di questo provvedimento. Un garante nazionale per i detenuti, nuove norme sulla liberazione anticipata in materia di immigrazione, modifica la legge sulle droghe, affidamento in prova per pene fino a 4 anni. Queste le principali misure del provvedimento che dovrebbe dare una risposta all'annoso problema del sovraffollamento carcerario. 3 punti più dibattuti e soggetti a modifiche dell'ultima ora: la non applicabilità della scarcerazione anticipata speciale, che il provvedimento aumenta da 45 a 75 giorni a chi ha commesso reati di mafia o gravi delitti, e ancora l'invio in comunità di minori tossicodipendenti incolpati per piccolo spaccio e il rafforzamento dell'organico dell'esecuzione penale esterna, gli uffici che si occupano del trattamento socioeducativo dei detenuti. Nel provvedimento trova spazio anche la proroga della misura degli arresti domiciliari e un generale ampliamento della possibilità di ricorso alle misure alternative, e poi la velocizzazione delle procedure di identificazione dei detenuti extracomunitari. Diventa obbligatorio il braccialetto elettronico per chi sconta la pena domiciliare nei permessi e nell'affidamento in prova, mentre arriva il garante nazionale a difesa dei diritti dei detenuti, per il quale al momento però non vengono stanziate risorse. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'INPS, che dopo le dimissioni piuttosto sollecitate, diciamo così, di Mastrapasqua è senza un presidente. Per il 2014 c'è un buco da quasi 5 miliardi. Il sistema previdenziale è perfettamente in equilibrio, riferisce intanto una nota dell'INPS. Con la legge di stabilità il patrimonio è protetto dall'erosione determinata dall'incorporazione in DAP, sottolinea così una nota dell'istituto. Nel corso dei prossimi mesi il patrimonio dell'INPS sarà azzerato. Lo si evince dalla relazione sul bilancio di previsione per il 2014 firmata dall'ex presidente Antonio Mastrapasqua. Nelle 85 pagine di rendiconto finanziario si annuncia che negli ultimi 4 anni il paracadute patrimoniale dell'istituto è passato dai circa 40 miliardi di euro del 2009, primo anno di gestione Mastrapasqua, ai meno 4 miliardi e mezzo previsti per il 31 dicembre 2014. Oltre alla perdita delle riserve, la relazione presenta un altro dato drammatico. L'INPS chiuderà l'anno in corso con un disavanzo complessivo di 12 miliardi di euro, disavanzo che resterà elevato oltre i 10 miliardi di euro anche nel 2015 e 2016. A pesare, oltre alla crisi che erode i contributi, la crescita costante delle nuove pensioni e quelle calcolate con il metodo retributivo, che sono ancora molte, dureranno anni. Molto tempo dovrà passare per sentire gli effetti calmieranti della riforma Fornero. Nel frattempo, a neutralizzare lo sbilancio entrate uscite dell'INPS ci penserà lo Stato, ovvero i contribuenti, aumentando ogni anno di circa 10 miliardi i suoi trasferimenti e i giovani delle gestioni parasubordinate. Loro al momento stanno solo versando e la loro gestione è in attivo per oltre 8 miliardi di euro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'avvertenza Electrolux. Oggi sono giunte rassicurazioni dall'amministratore delegato italiano dell'azienda svedese. Vogliamo restare in Italia, non abbiamo nessuna intenzione di andare via, però vogliamo essere sicuri che quello che facciamo abbia una base competitiva. Con queste parole, in un'audizione al Senato, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ferrario, interviene per rassicurare sulle intenzioni del gruppo svedese, ma anche per chiedere garanzie per il futuro. Il manager nega di aver chiesto un taglio dei salari del 40% e la chiusura dello stabilimento di Porcia, ma ribadisce la richiesta di ridurre il costo del lavoro, anche prolungando il ricorso ai contratti di solidarietà per avvicinarlo a quello più competitivo di paesi come Polonia e Romania. Solo così, dice, sarà possibile fronteggiare l'agguerrita concorrenza dei produttori di elettrodomestici sudcoreani. In vista del prossimo incontro al Ministero del Lavoro il 17 febbraio, i sindacati, dopo aver bocciato il piano di tagli avanzato da Electrolux, restano intanto sul piede di guerra, ma accolgono in modo positivo la parziale retromarcia dell'azienda su Porcia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E arriviamo alla cronaca dalla provincia di Milano. Ritrovata in un parcheggio a Magenta l'auto usata ieri pomeriggio per far evadere l'ergastolano Domenico Cutrì mentre veniva portato in tribunale a Gallarate. Il detenuto è ricercato in tutta Italia insieme ai complici, un uomo pericolosissimo con una forte capacità di intimidazione e di condizionamento, così l'ha definito il procuratore generale Marcello Maddalena. Parliamo anche di Microsoft, perché è stato scelto il terzo amministratore delegato della sua storia. Come ci si attendeva, tocca a Satya Nadella, attuale responsabile della divisione Cloud Enterprise. Contemporaneamente Microsoft ha annunciato che Bill Gates, il fondatore del colosso, lascia la presidenza del consiglio di amministrazione della società e assume un ruolo più operativo, divenendo consulente per la tecnologia. E siamo al calcio. Per la Coppa Italia in campo la semifinale d'andata fra Udinese e Fiorentina. Vediamo a che punto sono negli aggiornamenti in diretta. 0-0 per il momento Udinese-Fiorentina. E occupiamoci infine di Sochi, a tre giorni dall'avvio delle Olimpiadi invernali. Vladimir Putin è arrivato a Sochi e naturalmente si è fatto subito notare per una delle sue prove scenografiche di coraggio, infilandosi nella gabbia di un leopardo dal nome Grom, cioè tuono, che si è aggraffiato e cercato di mordere due reporter con il presidente russo. Non ha osato. Ho del feeling con gli animali, ha detto Putin, che ora dovrà domare allo stesso modo i rischi che incombono sui giochi più temerari della storia. Il villaggio olimpico si sta popolando. Oltre a Putin sono arrivati altri atleti azzurri e il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Le prime impressioni sugli impianti sono positive, ma il loro è un mondo isolato dai tanti cordoni protettivi che circondano il villaggio degli atleti da questo pezzo di Russia, che resta come invisibile e silenzioso al di là delle barriere di ferro. Dalla palazzina che ospita gli azzurri esce Arianna Fontana, la nostra speranza dello short track, e racconta che la sicurezza non dà una sensazione di oppressione. Dice che i russi hanno fatto le cose in grande e spiega di sentirsi tranquilla. Alle gare manca ancora qualche giorno per lei, invece per gli organizzatori il grande momento è alle porte e a partire da venerdì si gioca sul serio. Dopo tante polemiche i russi, con Putin in testa, cercheranno il riscatto. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore, Sochi. Ecco, questo è il racconto sintetico della giornata. Tra poco passerò invece con gli ospiti ad approfondire diversi argomenti, tra cui per esempio il decreto svuota carcere e anche questa proposta che aveva fatto un procuratore, tra poco lo saluteremo, di cercare di far partecipare certi detenuti molto molto pericolosi alle udienze attraverso delle videoconferenze anziché trasferirli, come è successo ieri, con questi rischi poi di evasione. Ci saranno poi molti altri temi. Tenete d'occhio sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, e questa è quella giusta, oppure messaggi al 349-238-6666. Adesso una sosta per aggiornare chi invece va. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E a proposito di notizie, adesso dopo questa pausa, se aveste mai acceso la radio in questo momento invece di accenderla puntualmente alle 21, vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. Al Parlamento europeo Napolitano difende l'euro, la Lega contesta, bufera quindi a Strasburgo, stop all'austerity, dice il Presidente della Repubblica, ma dall'Unione Europea dice però non si esce e il Presidente del Parlamento Schulz deplora la contestazione lombarda. Confindustria, il Presidente Squinzi denuncia il paese ostaggio della burocrazia e rispondendo alle parole di Letta dice nessun disfattismo da parte degli industriali. Il caos al Parlamento, c'è la relazione dei Questori che condanna duramente il comportamento dei parlamentari 5 Stelle e di D'Ambruoso. Per quanto riguarda l'INPS ha i conti in rosso e per il 2014 c'è un buco da quasi 5 miliardi. E per il calcio Coppa Italia, stasera la semifinale d'andata fra Udinese e Fiorentina che per il momento viaggiano sullo 0-0. E prima di salutare il primo ospite di questa sera, alleggeriamoci un po', sentiamo Crozza Ballarò che dice. Fare certe domande in rete è come scrollare un elefante che ha mangiato una montagna di prugne. Cosa ti aspetti che esca? Grillo si è giustificato dicendo che i commenti volgari e sessisti sono arrivati di notte e non hanno potuto toglierli perché nessuno controllava. Ma se tu fai una domanda così e poi vai a dormire, non è che poi ti risponde Petrarca con un sonetto. Ah, Laura, quanto Laura... Laura, quanto è bel condurti meco sulla vettura mia di marca Iveco. Pur se ghigliottina, io non mi spiego. Ciao, so tiegce dove c'è più lenza. Insomma, tiene sempre banco, naturalmente, quello che è successo in Parlamento i giorni scorsi e anche in parte sta succedendo. Ne succedono anche altre. Buonasera, Nicola Grattieri. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qui a Effetto Notte, procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, uno dei magistrati più conosciuti della direzione distrettuale antimafia, impegnato in prima linea contro l'Andrangheta. E poi ricordo che il presidente del Consiglio Enrico Letta a giugno dell'anno scorso ha nominato Grattieri componente della task force per l'elaborazione di proposte in tema di lotta alla criminalità organizzata e penso naturalmente che ne avrà fatte di proposte Grattieri. Fra le altre adesso, questa del momento contingente relativamente all'evasione di ieri. Ricordo ascoltatrici e ascoltatori che magari non lo sapessero che sono estese in tutta Italia le ricerche del comando che ieri a Gallarate, vicino a Varese, ha fatto evadere un ergastolano, Domenico Cutridi, 32 anni, mentre suo fratello Antonino, 30 anni, è morto per le ferite in questo scontro a fuoco con la polizia. E oltre all'evaso si cercano altri due o tre uomini entrati in azione poco prima delle 15. Ricordo che Cutridi è un boss dell'Andrangheta ed è stato condannato per l'omicidio di un giovane polacco che aveva corteggiato la sua fidanzata. E lei, Grattieri, ha commentato questa vicenda dicendo insomma bisognerebbe utilizzare di più le videoconferenze per far partecipare dei detenuti così pericolosi alle udienze invece di trasportarli da un tribunale, da una città all'altra, dal carcere al tribunale con i blindati. Sì, certamente questo servirebbe non solo ad abbattere i costi della giustizia, del Ministero della Giustizia, ma anche e soprattutto abbattere il problema della sicurezza, cioè portare in giro detenuti così pericolosi mettono a rischio l'incolumità di tutti quelli che ci stanno attorno. Quindi con la videoconferenza questo problema si eviterebbe. Senta, ma finora non lo si fa per una questione di organizzazione, di costi, di arretratezza? Qual è il problema, Grattieri? Ma il problema è squisitamente politico, nel senso che noi più volte abbiamo parlato di queste soluzioni al problema e noi più volte l'abbiamo detto, scritto da tanti anni, però non viene attuato perché il legislatore che fa le regole quindi è solo esclusivamente un fatto politico. Un fatto politico, però leggevo una dichiarazione del presidente dell'Unione Penalisti Italiani di questa sera, Valerio Spigarelli, che ha sottolineato l'assoluta contrarietà della categoria dei penalisti a un'estensione dell'udienza in videoconferenza perché dice lede il diritto di difesa degli imputati, cioè il diritto di difesa ne risulterebbe fatalmente amputato. Assolutamente no, perché il difensore poi in qualsiasi momento, anche quando il detenuto è a 1000 chilometri di distanza, parlare. Perché ha la possibilità di parlare al telefono con l'avvocato in qualsiasi momento, sapendo tranquillamente che quella intercettazione non può essere assolutamente controllata, ma è privata e segreta tra il difensore e, e il detenuto. Procuratore Gratteri, prima di lasciarla, poi tra poco saluto Alfonso Bonafede, deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Giustizia, mi dice cosa ne pensa lei del decreto svuota carceri sul quale si vota la fiducia? Ma assolutamente non sono d'accordo con questo decreto svuota carceri, non solo non tanto perché molti detenuti escono svuotando di contenuto quindi la sentenza combinata dai magistrati in nome del popolo italiano, ma anche e soprattutto perché si mette nella testa della gente la convinzione che alla fine tutto sia giusto, che alla fine ad ogni cosa c'è una soluzione. Questo è grave, perché si stila nella testa della gente che tutto è possibile, che ogni problema c'è una soluzione. Quindi sono assolutamente contrario. Se si vuole risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, bisogna fare trattati bilaterali con gli stati stranieri in modo tale che i detenuti stranieri in Italia scontino la pena nei loro stati, risolvere il problema tossicodipendente nelle carceri, e così in questo modo noi avremmo i tossicodipendenti, anziché farli stare in carcere, starebbero in comitato terapeutico per disintossicarsi, e in questo modo diminuirebbe di sicuro il numero dei detenuti e non avremmo più problemi di sovraffollamento. Grazie procuratore Gratteri, grazie e buon lavoro. E buonasera Alfonso Bonafede, buonasera. Buonasera a tutti. Onorevole, quindi ha sentito Nicola Gratteri, procuratore di Reggio Calabria, quello che diceva sul decreto svuota carceri, sul fatto che lui era contrario per vari motivi, e tra le possibili soluzioni, per esempio questi trattati bilaterali tra gli stati per i detenuti stranieri e poi anche sui tossicodipendenti, insomma di farli stare in comunità e non in carcere. Voi del Movimento 5 Stelle avete contestato questo decreto svuota carceri, lei ha votato, sta votando? Io ho appena votato, ovviamente ho detto no alla fiducia a questo governo, il governo ancora una volta ha posto la fiducia come nella peggiore delle prassi della politica italiana, e ricordiamo che è un modo con cui alla fine viene troncato il dibattito parlamentare, le opposizioni non possono più discutere e far votare gli emendamenti, tra l'altro in occasione del decreto svuota carceri, questo è importante che la gente lo sappia, soprattutto a seguito di giornate in cui si è parlato del Movimento 5 Stelle come di un movimento che fa contestazione a prescindere da tutto. Noi, la Commissione Giustizia si è riunita la scorsa settimana. Noi eravamo pronti a lavorare, ma visto quello che era successo la sera prima, la bagarre ormai nota a tutti in aula, una sorta di ritorsione o comunque di allineamento della presidenza della Commissione Giustizia, che è presieduta dalla presidente Ferranti del PD, una sorta di allineamento allo stile ghigliottina Boldrini, ha deciso a un certo punto di chiudere il dibattito immediatamente col testo che era stato appena discusso, c'erano stati emendamenti solo su due articoli, ha deciso di chiudere il dibattito e di dare mandato perché si arrivasse direttamente alla Camera. E questo più nel metodo che non poi nel contenuto. Invece per il contenuto, il problema è che il decreto prevede come contenuto un indulto mascherato. Perché un indulto mascherato? Perché l'indulto ha due caratteristiche principali. Uno è la retroattività, cioè si applica a gente che sta già scontando la pena, no? Dall'altra parte l'indulto opera in automatico rispetto ai detenuti, quindi si decide quali sono i reati e l'indulto opera. Va bene. In questo caso l'indulto opera in automatico, ma per non far sembrare che si trattasse di un indulto, il governo ha pensato bene di mettere un filtro del giudice di sorveglianza, cioè quindi c'è il giudice di sorveglianza che applica uno sconto di pena maggiore, che è evidentemente automatico, cioè questo è solo un cavillo per consentire al governo di applicare un indulto senza chiamarlo indulto. Senta, Buonafede, lei intanto, mentre pensa a che possibile soluzione trovereste voi del Movimento 5 Stelle, le faccio sentire Giuseppe Berretta, sottosegretario alla giustizia, a proposito appunto di questo argomento, oggi a Effetto Giorno. Noi abbiamo una norma che prevede che soltanto per alcuni reati particolarmente gravi, che riguardano appunto la mafia, il terrorismo, sia prevista questa possibilità. No, questo era ancora sulla videoconferenza al posto del trasporto, cosa di cui abbiamo parlato prima con Grattieri. Buonafede, voi che soluzione invece proporreste per la situazione delle carceri, che effettivamente è quella che è, no? Anche l'Europa. Noi abbiamo presentato un piano carcere alternativo che sostanzialmente tende ad intervenire sulle carceri già esistenti per migliorare le condizioni delle stesse e quindi dei detenuti, perché quello che i cittadini non sanno è che le carceri ci sono, solo che ci sono intere parti di queste strutture carcerarie che non sono utilizzate perché non è stato possibile fare le opere di manutenzione. Quindi il piano carcere alternativo che abbiamo presentato noi è un piano carcere alternativo che permetterebbe un intervento anche, diciamo, di semplice esecuzione. È chiaro che il problema del sovraffollamento delle carceri è un problema complesso, ma di fronte al quale questo governo non sta facendo nulla. L'indulto, l'amnistia dovevano essere gli ultimi elementi, l'estrema ratio di un percorso però di intervento strutturale che qui è totalmente assente. Ora questo governo ha pensato addirittura, attraverso questo indulto mascherato, che ripeto opera in automatico perché sono venuti i procuratori in i vari PM, i vari giudici in commissione giustizia e hanno chiarito, ha chiarito anche il capo del DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ha chiarito che si applicherà al 100% dei detenuti che avevano beneficiato già di uno sconto di pena, quindi che avranno quest'altro beneficio in automatico. Cioè la gente a casa deve capire che qui quando viene condannata, secondo questo decreto, quando una persona viene condannata a un anno di detenzione, in realtà se ne fa poco più di metà. Sì, perché cioè, c'era già uno sconto, infatti più volte c'era che c'era già uno sconto parlato di 45 giorni e viene esteso a 75 giorni. No, è stato 75 giorni, 75 giorni a semestre. Cioè quello che noi diciamo è: va bene, volete fare l'indulto? Noi non lo condividiamo. Però allora prendetevi la responsabilità politica e ditelo, ma non si può far passare un decreto legge un indulto mascherato che ha già fatto uscire mafiosi dal carcere. Buonafede, è stato chiarissimo, adesso devo chiudere, la ringrazio e le auguro buon lavoro allora e buona continuazione. Leggo giusto qualche messaggio arrivato alla pagina Facebook di Effetto Notte. Domenico dice: non lo conosco nei dettagli questo decreto, ma da addetto ai lavori, quale poliziotto, posso solo dire che provvedimenti simili non risolvono il problema, anzi lo aggravano. Marco dice: altro sistema per far sì che nel nostro paese la pena sia una barzelletta. Vittorio è la caporetto del sistema giudiziario del paese. Fabrizio dice: certo che i pentastellati non parlavano con i giornalisti, ma adesso che hanno cominciato sono dappertutto. Vabbè, insomma, si vede che hanno cominciato ad avere più esperienza in questo senso. Donata: non voglio nemmeno pensare di ascoltare lo svuotacarcere, è un ossimoro. Chi è in galera per una sentenza definitiva ci deve rimanere, in alternativa costruiscano nuove carceri. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Prima di ricordarvi i fatti principali di oggi, vi leggo qualcun altro dei messaggi arrivati tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666. Roberto da Milano fa una proposta: sarei più propenso, dice, a proposito del decreto svuota carceri, dice, un decreto legge svuota politici. E poi invece dice Filippo: perché non far fare i lavori di manutenzione agli stessi detenuti? Qualche volta c'è stata questa proposta e alla fine diventa troppo complicato per una questione anche di competenze, di fattibilità, insomma delle cose. Comunque ritorniamo alle notizie principali di oggi. Napolitano difende l'euro a Strasburgo, la Lega contesta, bufera quindi al Parlamento e Napolitano ha chiesto anche stop all'austerity, ma dall'Unione Europea dice però non si esce. Il presidente del Parlamento Europeo, Schulz, deplora i Lombard. La censura dei questori sul Movimento 5 Stelle, volevano bloccare la Camera, dicono, intanto Grillo grida il golpe e Renzi, ironico, dice questa è la tredicesima volta da gennaio che lo dice. E per quanto riguarda le altre notizie, l'INPS in rosso, per il 2014 il buco è di quasi 5 miliardi e per il calcio c'è la Coppa Italia, si sta giocando Udinese-Fiorentina, ma niente, per il momento non si muove nulla, è 0-0. Parliamo appunto di Europa, allora adesso, tra pochissimo saluterò l'altra ospite, Adriana Cerretelli, ma prima vi dicevo che Napolitano oggi era a Strasburgo, al Parlamento Europeo, ha lanciato questo appello, basta con l'austerità, i parlamentari leghisti l'hanno interrotto, insomma nel suo secondo discorso il capo dello Stato, nel secondo discorso del Parlamento Europeo, chiede all'Europa una sferzata verso la crescita, che segni una discontinuità rispetto alle politiche di austerità che hanno segnato questi anni di crisi. Napolitano ribadisce quindi la necessità di proseguire con le politiche di integrazione, attacca l'ala euroscettica e definisce marginale questa breve contestazione leghista. E sentiamo allora il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, che all'inizio di questo servizio che ha salutato Napolitano in italiano. Europa 24 notte. Verso le europee. Caro presidente Napolitano, caro Giorgio, bentornato al Parlamento europeo. Nel suo discorso di fine anno ha citato tra gli altri un messaggio di Veronica, una ragazza di Empoli di 28 anni. Da 3 anni è alla ricerca di un lavoro. Veronica sente che la crisi attuale è in realtà una crisi della capacità di suscitare entusiasmo nei giovani. Penso che sia il nostro lavoro come politici dire con la forza dei fatti sì a Veronica e agli altri milioni di europei che si stanno ponendo la stessa domanda. Ti, Giorgio, ringrazio per essere qui oggi, per essere parte di questa riposta. Il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz accoglie così, 7 anni dopo il suo primo discorso, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Strasburgo. Schulz cita in italiano la lettera di Veronica, giovane toscana che Napolitano aveva menzionato nel suo messaggio di fine anno. Cede poi la parola al capo dello Stato che esordisce definendo le prossime elezioni europee un momento di verità da affrontare fino in fondo, anche perché, sottolinea, sono evidenti le ragioni del disincanto dei cittadini per il peggioramento delle condizioni di vita e dello status sociale che ha investito larghi strati della popolazione. Il capo dello Stato lancia anche un affondo contro l'austerity. Appare dunque naturale che nel dibattito pubblico e nel confronto politico abbia assunto una netta priorità il tema di una svolta capace di condurre a quell'effettivo rilancio della crescita e dell'occupazione da ogni parte considerato indispensabile e auspicato. Si ritiene cioè che non regga più una politica di austerità ad ogni costo. Napolitano non rinnega tu cura la necessità della disciplina di bilancio imposta dall'esplosione della crisi, rivendica anzi gli sforzi fatti dal nostro paese. L'Italia in particolare ha compiuto in questi anni rilevanti sforzi e sacrifici, essendo bersaglio di forti pressioni sui mercati finanziari per il livello degli interessi sull'ingente debito pubblico accumulato nei decenni precedenti. Il Presidente della Repubblica chiede una svolta per la crescita e l'occupazione, ponendo così fine al circolo vizioso tra politiche restrittive e arretramento delle economie. Gli ingredienti che individua sono riforme strutturali, investimenti privati pubblici, innovazione, maggiore formazione e riequilibrio finanziario. L'autocritica sull'Europa e anche sull'euro, moneta rimasta monca nella sua costruzione, non impedisce però a Napolitano di incitare ad andare avanti. La costruzione europea ha ormai fondamenta talmente profonde che si è creata una tale interconnessione e compenetrazione che nulla può farci tornare indietro. Su queste basi Napolitano attacca gli euroscettici e parla di vacua propaganda da parte di chi l'Europa vorrebbe liquidarla. Il riferimento all'ala anti-euro di cui la Lega Nord fa parte è evidente. La contestazione prevedibile assume le solite colorite forme del popolo verde. Grazie. Infatti, È solo un attimo, i leghisti si rizzittiscono mentre la plenaria applaude unitariamente Napolitano, che chiude con un appello ai deputati. È nelle vostre mani il compito di far nascere e far crescere la dimensione politica dell'integrazione europea. Sergio Nava, Radio 24, e Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ed eccoci con Adriana Ceretelli. Ciao Adriana. Buonasera. Il Sole 24 Ore, grandissima esperta di lunghissima esperienza delle vicende europee. Senti Adriana, quindi da una parte c'è la politica dell'austerità che aumenta inevitabilmente queste allergie nei confronti dell'euro e dell'Europa, e quindi Napolitano dice insomma basta austerità. Dall'altra parte bisogna anche riconoscere le responsabilità dei governi nazionali che si sono succeduti man mano negli anni di vari paesi, con lo spepero, il nostro compreso, lo spepero di denaro pubblico, la corruzione, l'evasione fiscale, accuse che proprio ieri arrivarono dalla commissaria agli affari interni Cecilia Malmström, no? Quindi mi ha colpito anche poi una dichiarazione di Napolitano che oggi ha detto: dai risultati delle elezioni europee, che ricordo ci saranno il 25 maggio, che potrebbero, dice, premiare i partiti euroscettici, non dovrebbero esserci una ricaduta meccanica sugli equilibri nazionali. Quindi è anche preoccupato delle elezioni alla fine Napolitano, dei risultati? Beh sì, mi sembra naturale, credo un po' tutti in Europa sono preoccupati dei risultati, non tanto diciamo per gli scossoni all'interno quanto piuttosto per lo scossone che potrebbe venire agli equilibri europei, perché se davvero nel Parlamento dovessero arrivare, si parla del 25% di euroscettici, certamente non inficerebbe la maggioranza del Parlamento, perché un'alleanza tra socialisti e popolari o anche i liberali, ammesso che tengano, potrebbe neutralizzarli, ma fino a un certo punto, perché insomma ci sono anche certi quorum di voto per cui una maggioranza relativa non basta, quindi e poi il segnale politico sarebbe devastante per l'Europa. Ma secondo te questo appello di Napolitano sarà ascoltato, cercare appunto di allentare un po' questa politica dell'austerity, o inevitabile ancora in questi frangenti? Io temo che sarà poco ascoltato, e lo dico perché quando la Merkel ha fatto l'accordo con i socialdemocratici tedeschi, l'accordo di coalizione, si sperava che in quell'accordo ci fossero dei segnali concreti a favore di stimoli alla crescita europea. Come si sa, questo non c'è stato minimamente nell'accordo di grande coalizione. Ora non ho la sensazione che gli altri partiti, una volta che la SPD non ha fatto quello che si aspettava, possano rimpiazzarla, perché il peso politico è diverso, la loro forza relativa è diversa. E lo stesso Hollande, François Hollande, il presidente francese, in fondo non ha fatto che recentemente allinearsi ufficialmente con la linea delle riforme e della relativa austerità, quando ha fatto quel discorso in cui ha annunciato pesanti tagli fiscali e ha annunciato tagli consistenti alla tassazione delle imprese, perché ha detto senza crescita economica non c'è nulla da distribuire, senza una ripresa dell'apparato dell'economia e della produzione di un paese le risorse latitano, e quindi bisogna ricostruire l'economia francese, ricostruire la competitività francese, perché il paese possa tornare a contare nel mondo e anche in Europa. Ora, se questo è il credo di una presidenza socialista che è, appunto, ha vinto le elezioni promettendo crescita e occupazione, io credo che gli spazi di manovra per noi siano perlomeno molto ma molto ristretti. Ai, Adriana, io ti ringrazio, Adriana Cerretelli, poi torneremo ancora a parlare altre volte anche della comunque impossibilità probabilmente di poter uscire dall'euro come da più parti si chiede. Grazie Adriana intanto e buona continuazione. Arrivederci. Ciao Adriana. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Adesso invece con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. parlerei di queste tensioni, insomma, abbastanza tangibili tra Letta e Confindustria. Squinzi, presidente di Confindustria, aveva detto già nei giorni scorsi: o si cambia passo qui o è meglio andare al voto. Letta ha fatto il suo tour nei paesi del Golfo Persico e ha riuscito a portare a casa, insomma, qualche risultato, un po' di investimenti pari a 500 milioni di euro, e oggi ha detto insomma, avete visto voi disfattisti che qui si guadagna in credibilità e anche in investimenti. E Squinzi però ha detto: noi abbiamo comunque il diritto e il dovere di parlare dei problemi. Qual è il tuo commento, Fabrizio? Ma che Letta fa benissimo a rivendicare i successi di questa missione in Medio Oriente, che porta degli investimenti in Italia significativi. Fa meno bene quando parla di disfattismo verso chi prova, diciamo, a evidenziare i problemi di un'economia che restano problemi molto molto gravi. È vero, all'estero noi ci comportiamo bene, le nostre imprese esportano anche bene verso l'esterno, e questo sta dando una piccola spinta di ripresa all'Italia, ma il problema italiano è tutto legato a dei consumi che non ripartono, al mercato interno che non riparte, agli investimenti che non ripartono. E credo che illustrare questa realtà non sia disfattismo, ma sia un realismo che può aiutare il governo ad agire in qualche modo. Senti, ma secondo te sarebbe opportuno, nel senso, questo governo ti sembra avviato adesso verso delle azioni concrete, o qualcuno dice che anche Renzi ha in serbo la carta del voto a ottobre? Ma io non credo questo, e secondo me se cominciamo a parlare di questo facciamo un danno ulteriore all'economia. Sarebbe bene che, come dire, si tenessero separati due piani, che Renzi prepari la sua corsa verso le elezioni nel 2015, che probabilmente potrebbero portarlo anche alla guida del governo, ma intanto questo governo continui a governare e a affrontare le emergenze dell'economia, che sono quelle che ci dicevamo prima, cosa che in questi giorni non sta facendo, in queste settimane non sta facendo, distratto appunto da questa polemica, da questo continuo ping pong con Renzi e con parti della maggioranza sempre più inquiete, che distraggono appunto l'attività del governo dai problemi reali, dai problemi della gente, dai problemi del lavoro, delle imprese. Grazie Fabrizio Forché, buon lavoro anche a te allora, oltre che al governo. Ciao Fabrizio. Perché parlava anche dei consumi che non ripartono. Intanto l'Istat li fotografa, i nostri consumi, no? Ogni tanto col paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi al consumo. L'aggiornamento tiene conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie e arricchisce poi in alcuni casi la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati. Allora voglio salutare la professoressa Ariela Mortara. Buonasera. Buonasera professoressa, docente di costumi e società all'Università IULM di Milano. Consumi e società. Consumi e società, mi scusi. Niente. Stavo pensando appunto a costumi e società, consumi e società. E dunque, tra i prodotti nuovi che sono entrati nel paniere ci sono i sacchetti ecologici per i rifiuti organici, e questo significa appunto stiamo cominciando a diventare un po' più civili e ecologici. Il giornale quotidiano online, quindi questo significa anche crisi per il cartaceo, le cialde di caffè, la macchina da caffè con cialde naturalmente, il notebook, e poi esce per esempio il tailleur, la donna entra un più generico abito da donna, esce lo yogurt biologico, entra quello probiotico, entra il formaggio grattugiato in busta e il formaggio da spalmare. A me sembrava una cosa già, cos'è, un bisogno di darsi del piacere, di rilassarsi col formaggio, quello già grattugiato, quello morbido che non c'è bisogno neanche di masticarlo, visto che il resto dà poca soddisfazione, professoressa? No, secondo me quei due ultimi ingredienti sono dovuti al fatto che aumentano i nuclei monofamiliari, per cui le persone hanno bisogno del formaggio già pronto e non tengono la scorta di formaggio intero, e il formaggio spalmabile è la stessa cosa, è un passo veloce, per cui quello secondo me fa riferimento più che altro al cambiamento dei nuclei familiari, quindi al pranzo rapido, meno pasti complicati e più snackizzazione della società. Snackizzazione, quindi anche velocizzazione, e questo significa forse anche poco benessere, poco possibilità di dedicarsi un po' a se stesso e ai propri piaceri, anche se vedo che entrano anche il costume per piscina dei bambini e le scarpe da ginnastica dei bambini, quindi nonostante la crisi non si rinuncia a investire nella salute, nello sport, nell'attività fisica dei più piccoli. Beh, il comparto in realtà dei consumi nei confronti dei bambini è uno di quelli che ha tenuto meglio, nel senso che se ci sono da fare delle rinunce non sono state fatte nei confronti dei bambini. Anche durante gli acquisti natalizi non si sentiva altro che gli acquisti di giocattoli, quindi di fatto tagli su tante cose ma non tagli nei confronti dei bambini, quindi anche lo sport e le attività extracurricolari dei figli probabilmente in questo senso sono mantenute, sono importanti, quindi anche l'abbigliamento per fare queste attività. Però professoressa Mortara, allora mi viene subito l'associazione mentale su un altro elemento prodotto che è entrato in questo paniere a proposito di bambini e di figli. Il test di gravidanza. Indovina, bravissima. No, come letto. Mai? Che cosa significa questa cosa? Riparte. Io credo che dipenda dal fatto che all'interno comunque del paniere devono esserci, sicuramente ci sono rappresentanze di varie categorie merceologiche, per cui molto probabilmente c'era bisogno di inserire anche qualche cosa che riportasse a una specifica categoria che non ho neanche idea se faccia parte dell'healthcare o non so dove rientri, però secondo me si riferisce a quello. Voglio dire, i dati di nascita ci dicono che in realtà gli italiani in quanto tale non fanno figli. Chiaramente abbiamo, la nostra società è sempre più multietnica, quindi le nascite ci sono ma non sono da parte di con i dati stranieri. Forse è per il contrario, la preoccupazione tra crisi e anche diciamo evoluzione o involuzione a seconda da che punto di vista lo si guardi, una fa il test di gravidanza perché è preoccupata, non ne vuol sapere, quindi controlla di più di prima se... Ma questo non lo so, anche perché in realtà se si leggono i dati sulla diffusione della contraccezione eccetera, teoricamente uno del test di gravidanza non ne dovrebbe aver bisogno, se non altro se ci ha fatto caso, recentemente sono anche invece aumentate le pubblicità relative agli strumenti per verificare il periodo di fertilità e l'ovulazione, quindi in realtà sembrerebbe andare incontro a questa idea che lei diceva della ricerca di allargare la famiglia, che è controistintiva rispetto all'idea che il denaro non basti, quindi. Però è anche vero che nei periodi di crisi o comunque nei periodi di difficoltà si torna alle cose basic, di base, quindi la famiglia in questo senso potrebbe essere un rifugio. Senta, abbiamo ancora proprio 20 secondi. Sì. Dice un ascoltatore, il paniere dell'Istat è una delle tante invenzioni del fascismo ancora in vigore, una presa in giro. Secondo lei in 20 secondi? Ma allora, una presa in giro non lo so, diciamo così che è difficile che il paniere dell'Istat rappresenti realmente il paniere di una famiglia italiana, e come tutte le cose idealtipiche è un po' stereotipata. Beh. E a seconda logiche differenti. Quindi sarebbe lo stesso paniere dell'Istat che in realtà deve cambiare, al di là dei consumi italiani. Grazie professoressa Ariela Mortara, grazie. Buonasera. Buona continuazione, noi ci sentiamo dopo.